Non è questo l'addio, tu che mi dici in fretta ciao e te ne vai e non ritornerai mai più. Non è questo l'addio. You.